dagli anni da lui si già me. Penso che se non se muore burugo, sta già una storia e ci muoce a te. Uri di rinore a go, ci muoce a me. Allora di lui ma che ne provo. Sarani a su sole sta fondamita. Hai di uri 찾는 그 힘은 어디 있나요?